Salva Danaio di Deborah Rosciani. A meno che io non sia la conduzione di Focus Economia, è un po' originale per me darvi il buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani per il secondo giorno consecutivo in un orario decisamente inconsueto, almeno per le nostre abitudini, perché come sapete Radio 24 ha organizzato questo Radio 24 Day, speciale Crisi Days, anzi perché è una duplice iniziativa organizzata ieri ed oggi. Abbiamo declinato gran parte delle nostre trasmissioni sui temi della crisi finanziaria internazionale, sui temi della manovra finanziaria e suoi effetti, e quindi abbiamo un po' capovolto tutta la nostra programmazione. Anche Salva Danaio si è naturalmente buttata in questa avventura, come per la verità stiamo facendo già da diversi mesi, ma abbiamo un po' intensificato gli sforzi. Cosa abbiamo fatto in questi giorni? Oltre a Salva Danaio tradizionale, dalle 12 alle 13, in cui abbiamo chiamato a raccolta esperti di risparmio e anche consulenti fiscali per spiegarvi come potranno andare i mercati, come può essere gestito al meglio il proprio risparmio in questo momento e anche come sarà la nuova fiscalità, perché nei prossimi mesi anche questa inciderà nelle nostre scelte di investimento. Abbiamo triplicato gli sforzi. Come? Abbiamo organizzato 2 ore di filo diretto con i nostri ascoltatori ad un numero privato e con un bel gruppo appunto di consulenti, e adesso in questa nuova diretta, come abbiamo fatto anche ieri pomeriggio, vi raccontiamo un po' quello che è successo in queste 2 ore e quali sono soprattutto le domande più frequenti che gli ascoltatori fanno, che le persone fanno, che le famiglie fanno, che i risparmiatori fanno in un frangente molto delicato come quello che stiamo vivendo, che come sapete si è intensificato particolarmente dalla scorsa estate, quando abbiamo cominciato a parlare solamente di spread, di rendimenti dei titoli di Stato che sono volati alle stelle. Ci siamo preoccupati molto per le condizioni finanziarie del nostro Paese, stiamo seguendo con grande attenzione quello che succede in Italia ma anche in tutta l'Eurozona, e tra l'altro oggi è stata una giornata molto interessante per il mercato, perché c'era l'attesa per questa grande asta organizzata dalla Banca Centrale Europea, che ha messo a disposizione del sistema bancario europeo un ammontare illimitato di risorse finanziarie. Le banche hanno ottenuto prestiti per quasi 490 miliardi di euro a tasso molto basso. Devo dire che l'attesa per questa operazione questa mattina aveva portato tutte le borse a crescere, così come era successo ieri pomeriggio. Poi c'è stato un dato, almeno gli operatori dicono così, deludente dagli Stati Uniti, un dato sull'andamento dei mutui che ha riportato un po' di depressione sui listini europei, che adesso sono un po' tutti in discesa, non è troppo, ma insomma c'è una perdita di circa lo 0,15% a Parigi, Francoforte sulla parità, Londra perde lo 0,44%, ma ormai Londra si è affrancata dalle altre storie europee da qualche settimana, e Milano perde lo 0,34%. Se sia proprio il dato sui mutui ad aver fatto cambiare direzione alle borse non lo sappiamo, per la verità io non ci credo molto, diciamo che dopo i rialzi forse di ieri oggi subito gli operatori sono passati all'incasso e magari non si prendono posizioni di lunghissimo periodo. Detto questo, oggi abbiamo un altro gruppo di consulenti che ci tengono compagnia fino alle 16. Due di questi si sono messi a disposizione nelle 2 ore precedenti degli ascoltatori di Radio 24. Intanto ve li presento. Sono Antonello Sanna, amministratore delegato di SCM SIM. Dottor Sanna, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Grazie e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Roberto Murolo, promotore finanziario di Finanze Futuro Banca. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. Ecco, grazie. Loro due sono tra il gruppone degli esperti e consulenti che hanno risposto alle domande degli ascoltatori appunto dalle 13 alle 15. Insieme a loro abbiamo coinvolto adesso anche Gianfranco Giannini Guazzugli, vicepresidente vicario dell'ANAS, l'Associazione dei Promotori Finanziari, oltre che promotore finanziario per Banca Fideuram. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio anche finalmente una voce femminile riesco a portare in questi 2 giorni di veramente grande compagnia maschile. Certo che a me ha fatto piacere, però almeno una voce femminile anche un po' tranquillizzante per i nostri ascoltatori, mentre peraltro poi magari Sanna e Murolo ce lo raccontano, molte ascoltatrici hanno chiamato per chiarire, come dire, aspetti della composizione dei propri investimenti, molti pochi ospiti femminili su questi temi. Io, Alma Foti, consigliere nazionale ANAS e anche lei promotrice finanziaria di Banca Fideuram, buongiorno. Buongiorno, siamo poche ma ci siamo. Ma buone, direi anche. Allora, questo Salva Danaio pomeridiano funziona come quello del mattino, e quindi potete chiamarci all'800 24 0024, ci potete potete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Chiedeteci, non dico quello che volete, stamattina le domande sono state di gran lunga le più gettonate, quelle sulla nuova fiscalità del risparmio. Abbiamo capito che nei prossimi mesi questo aspetto inciderà molto nelle scelte di investimento delle famiglie, perché prima era un aspetto che poteva tutto sommato essere considerato quasi trascurabile, comunque un po' invisibile. Adesso invece vanno fatti conteggi molto precisi e poi dobbiamo anche capire un po' come si fa a costruire un buon portafoglio che risponda completamente alle esigenze della famiglia. Magari molte famiglie le hanno anche cambiate le esigenze, perché qualche posto di lavoro si è perso, qualche famiglia ha dovuto attecchire al proprio risparmio per far fronte ai bisogni correnti, insomma qualche situazione è cambiata. Però raccontateci un po' cosa è successo in queste due ore. Roberto Murolo, Finanza e Futuro Banca, comincio con lei. Quali sono le telefonate che l'hanno colpita di più? Ma le telefonate che mi hanno colpito di più sono state quelle, prima di tutto, di un po' di paura, un po' di terrore di quello che ci capiterà nei prossimi mesi, addirittura potrebbe capitare, al condizionale, per esatto. Carità. No, ma infatti io ho passato il mio tempo un po' a tranquillizzare questi intervistatori, che insomma erano veramente preoccupati di quello che sta succedendo, ma tutto sommato poi parlando in termini molto, molto pacati, anche molto sereni, perché secondo me l'Europa c'è, ci sarà, come ci sarà l'euro, e quindi non ci saranno terrificanti e devastanti cambiamenti sotto questo punto di vista. Ripeto, parlando un po' pacatamente, serenamente a queste persone, poi siamo riusciti anche a salutarci molto cordialmente, con un po' di pace, certo, nel cuore. Antonello Sanna, chiedo anche a lei la stessa cosa, visto che anche lei nelle due ore precedenti appunto si è messa a disposizione dei nostri ascoltatori. Adesso, a prescindere dalle impressioni che ha avuto, quali sono anche le considerazioni che si possono fare sulla composizione dei portafogli di risparmio delle famiglie, che hanno interpellato noi naturalmente, che magari non rappresentano un campione particolarmente significativo della situazione nazionale, però sicuramente può essere interessante. Un osservatorio interessante. Allora, le telefonate che ho preso hanno mostrato una presenza di bond bancari veramente significativa, non ci stupisce, eh. Oltretutto spesso non quotati e quindi con difficoltà nel recuperare il prezzo. Testimonianze di difficoltà nel riuscire a comprare titoli di Stato, perché oggi la necessità del prodotto di casa è molto più forte forse rispetto a un tempo. Questa è la prima cosa che mi sentirei sulla composizione dei portafogli. Poche azioni, pochissimi hanno ancora azioni in portafoglio, probabilmente c'è stato uno switch piuttosto robusto dalle azioni verso le obbligazioni, e lì mediamente sono andati a comprare, consigliati da banca, bond bancari. Grande sensazione di paura nel capire cosa succederà domani, soprattutto due temi, il franco svizzero e l'oro. Però io penso che sia arrivato il momento di poter dare un'apertura di credito al governo, non perché sia il governo Monti, ma perché c'è un tema di coscienza di quello che sta accadendo, che è molto diverso rispetto a qualche mese fa. Quindi ho una visione ottimista, non per natura, ma perché in questo momento secondo me si sta lavorando per recuperare quello che non è stato fatto. Quindi per me il dialogo con gli ascoltatori è stato di guardare quel portafoglio con dei bond bancari che oggi probabilmente non sono più convenienti, semmai lo fossero stati proprio per il livello di rendimenti dei titoli di Stato, e io scambio volentieri rischio banca con rischio paese, perché ho più fiducia nel paese che nella banca. Anche perché, diciamo pure, che si equivalgono in qualche maniera, non trova? Sì, assolutamente. Dicevo, addirittura preferisco rischio paese a questo punto, e con questi rendimenti, secondo me, oggi per chi vede uno scenario positivo è un'opportunità straordinaria il rendimento del titolo di Stato. Alma Foti, sono quelle che hanno raccontato Muro Lessanna le paure che lei ascolta anche dai suoi clienti, oppure il fatto di avere, non lo so, magari relazioni consolidate con i suoi clienti in qualche maniera? Questo è stato un aspetto che ha anche arginato un po' i timori di queste persone, oppure si è sentita esprimere gli stessi dubbi? La tenuta del nostro paese, il BTP mi conviene, oppure con magari i fondi di investimento, i prodotti della casa che lei rappresenta, in qualche maniera è riuscita a contenere le manifestazioni di paura, perché in certi momenti ce lo possiamo anche dire tranquillamente, li abbiamo avuti tutti, io lo posso, l'ho raccontato anche in radio. Beh, io mi auguro che innanzitutto i miei clienti si sentano un po' meno disorientati degli altri, perché quantomeno ho cercato di dare un'informazione un po' più corretta, che oggi è difficile avere, perché arrivano tanti, tanti messaggi e quindi l'informazione non sempre arriva chiara. Quindi con i miei clienti si dialoga sicuramente molto delle nuove modifiche, dei cambiamenti che ci sono stati, soprattutto dal punto di vista fiscale, chiarire questa nuova tassazione, il nuovo bollo, capire il 20% è sui titoli di Stato e sui fondi, ci sono queste domande di questo tipo. Detto questo, poi si cerca di rivedere un po' quella che è stata la diversificazione del portafoglio, sia alla luce di quelli che sono stati gli andamenti attuali e anche alla luce di modifiche, come ha detto lei all'inizio, per qualcuno è cambiata la situazione, qualcuno ha perso, mi è capitato, un cliente ha perso il lavoro e quindi chiaramente vanno riviste queste situazioni. Nel frattempo io sto tossendo perché la mia voce scema sempre di più. Ci sono degli ascoltatori che hanno già cominciato a scriverci e quindi ancora una volta sono anche piuttosto soddisfatta del fatto che, anche se abbiamo così collocato in un orario inconsueto la nostra trasmissione, devo dire che l'attenzione si mantiene sempre molto alta su questi argomenti, anche perché stiamo andando verso la fine dell'anno, per cui magari molti degli ascoltatori si staranno così immaginando una conversazione con il proprio consulente finanziario per capire: senti, facciamo il punto della situazione, visto che tante cose cambieranno, mettiamo già a punto una nuova strategia di investimento per affrontare al meglio il nuovo anno, anche se bisogna capire che cos'è questo meglio. Gianfranco Giannini Guazzugli, insomma, è tempo anche di check-up finanziario del proprio portafoglio, anche se questa magari è una regola che vale almeno in un paio di occasioni l'anno, no? A prescindere dalla crisi. Ma indubbiamente una buona pianificazione è essenziale, non solo per i propri investimenti, ma probabilmente per la propria vita. E qui il vantaggio probabilmente di avere un professionista a fianco che aiuta nelle scelte, che consiglia, che ha una visione, non dico più distaccata, perché noi non è che viviamo fuori dal mondo, ma sicuramente un pochino meno emotiva rispetto a tutto il bombardamento di informazioni che i risparmiatori ricevono, spesso non indicazioni positive peraltro, perché si sente spesso il peggio di quello che potrebbe succedere, e questo indubbiamente spaventa il risparmiatore. Allora il nostro ruolo è anche quello di affiancarlo, di aiutarlo nelle scelte, capire effettivamente quali sono le necessità e le esigenze e pianificare o ripianificare, qualora servisse, il portafoglio di investimenti in previsione degli obiettivi che ci sono. Certo, magari una riforma della tassazione delle rendite finanziarie così concepita, anziché fare chiarezza, anziché aiutare a pianificare meglio, probabilmente complica un po' la vita. Un tema che non è stato toccato da sempre, dall'estate scorsa è stato toccato 4 volte, perché con la nuova tassazione sui fondi di investimento, il superbollo di Tremonti, la rimodulazione delle rendite finanziarie, adesso il nuovo intervento di Monti, certo che è stato fatto un bingo eccezionale. Ecco, diciamo che poi in tutto questo, non essendoci ancora il decreto attuativo, su alcune cose diventa anche ancora più complesso dare obiettivamente un consiglio al risparmiatore. Però diciamo, li aiutiamo a tenere la barra dritta, come si dice. È ovvio che è un contesto complicato, è un contesto molto più complicato di come era gli anni passati. È un contesto complicato non solo in Italia, quindi dovendo proprio aiutare il risparmiatore a pianificare i propri investimenti, bisogna aiutarlo ad avere anche uno sguardo più ampio, quello che succede intorno a noi, a parte l'area euro e quant'altro, ma probabilmente trasmettere una cultura finanziaria facendo capire che quello che era una certezza una volta, cioè l'investimento di casa, il BTP piuttosto che il CCT o quant'altro, che erano da sempre considerati il porto sicuro, e oggi questa realtà non è più così, quindi è un nuovo scenario, una nuova verità in qualche modo. Spostare l'attenzione pensando all'investimento, quindi parliamo di qualche cosa che utilizzeremo nel futuro, che i mercati forse più interessanti da questo punto di vista non sono più quelli domestici, o comunque non solo, ma bisogna avere uno sguardo molto ampio, e per averlo bisogna utilizzare dei professionisti e anche, direi, i prodotti giusti. Io tra l'altro sono molto incuriosita, tra tutti gli SMS che ci stanno arrivando, da questo in particolar modo: buongiorno, posso acquistare dei bond della Grecia? Verranno rimborsati? Allora io mi chiedo per quale motivo una persona in questo momento debba essere attratta da un investimento di questo tipo. Sanna, lei che ne pensa? Credo che siano i rendimenti che sono sono interessanti. Ma sono liquidi questi prodotti in questo momento? Cioè è facile andare sul mercato a prendersi momento, un bot greco? Siccome è sostenuta all'ultima emissione, ha un tasso intorno al 5%. Forse questo signore non lo sa, che vengono sostenute dall'autorità europea, il che significa che però in caso di rimborso il diritto, diciamo così, il credito privilegiato appartiene a chi ha erogato il sostegno rispetto al privato. Quindi in realtà posso dire, se uno voglia di giocare, c'è la roulette, la partita di poker, perché questo è un rischio troppo elevato. Infatti. Tra l'altro la Grecia non ha nessun segnale in questo momento che possa far pensare che non sia all'interno di una spirale che troverà solo peggioramenti strutturali, perché mano a mano che aumentano le manovre entrano sempre di più in una fase recessiva, quindi la scommessa direi che è anche esito certo. Allora, controllando un po' gli altri messaggi che ci stanno arrivando e cercando anche un po' di prevenire, magari di immaginare le riflessioni che da fuori si potranno esprimere da parte dei nostri ascoltatori, e molti magari potranno pensare, vabbè, avete fatto questa iniziativa di 2 giorni chiamando le aziende, i promotori finanziari, le società di gestione del risparmio e quant'altro, quindi insomma volete portare sempre la solita acqua allo stesso mulino. Murolo, riprendendo un po' le considerazioni che faceva Giannini Guazzugli poco fa, fidarsi alle professioniste in qualche maniera argina le preoccupazioni, limita i danni degli investitori, perché ci dovrebbe credere chi invece magari in questo periodo ha scelto completamente il fai da te? Ma la risposta è assolutamente sì. Rivolgersi a un promotore qualificato, magari facendomi qualche esempio, lei come ritiene di aver protetto i suoi clienti in questo ultimo anno? Prima di tutto dando delle comunicazioni e delle informazioni puntuali su quello che sta succedendo nel mondo finanziario, dopodiché facendo un punto della situazione, diciamo se non quindicinale almeno mensile, proprio perché le cose arrivano in maniera repentina, e quindi bisogna assolutamente andare a gestire ogni 15 giorni, ogni mese la nuova situazione che si viene a creare, e soprattutto infondendo una sicurezza che arriva da fare arrivare una consapevolezza all'investitore che bisogna andare a ragionare su una pianificazione finanziaria, cioè sul chiarimento degli obiettivi che ogni investitore ha per sé e per la propria famiglia, partendo da, per esempio, da una previdenza complementare, da una gestione della liquidità per obiettivi, e man mano salire nella scala, chiamiamo, della tolleranza al rischio, partendo, perché no, dagli obbligazionari più liquidi, quelli di AAA, non dimenticando il fatto che, come diceva prima il collega, lo scenario è assolutamente cambiato, qui porti sicuri non ce ne sono più, e anche per questo occorre veramente affidarsi a qualcuno che almeno di mestiere ogni giorno è davanti ai giornali, davanti alle informazioni, davanti ai video per chiarirsi prima di tutto di lui, prima di tutto le idee su che cosa vuol fare, su che cosa si può fare insieme. Adesso cominceremo a sentire gli ascoltatori. Volevo sentire però anche un po' la ricetta della protezione di Alma Foti, perché proprio con lei, prima microfoni spenti, prima di iniziare la trasmissione, facevamo il ragionamento sulla relazione consolidata con il cliente, che in qualche maniera ha protetto anche la stessa dottoressa Foti, forse anche gli altri consulenti che sono qui con me, dall'overdose di telefonate in arrivo da parte dei clienti, non dico terrorizzati ma comunque preoccupati. Quindi insomma, lei come ritiene di averli protetti, se lo ha fatto nell'ultimo anno? Beh, intanto, come diceva lei, il consolidamento, il rapporto di fiducia che si instaura con il cliente e la fiducia che hanno in me, quindi il dialogo molto continuo, l'informazione corretta, l'aver scelto sempre una diversificazione del risparmio basato sulle loro esigenze, obiettivi, averlo rivisto sulla base di certi cambiamenti. Io credo di aver fatto di aver fatto questo sostanzialmente. Allora, ha detto una parola molto importante, che è molto ricorrente quando faccio delle trasmissioni in cui chiamo a raccolta consulenti finanziari come voi, professionisti appunto della gestione del risparmio di molte famiglie, il tema della diversificazione, perché c'è una riflessione che voglio assolutamente sentire da parte di Romano da Roma, e giustamente, come si poteva chiamare il nostro amico Romano, buongiorno. Salve. Allora, perché non la convince tanto il tema della diversificazione, Romano? Dunque, non vorrei passare per ingrato, io sono un ascoltatore di Radio 24 tutto il giorno, ma sono giorni che dite che bisogna diversificare negli investimenti, quando è già difficile seguirne uno solo di investimento, visto poi gli impiegati di banca incompetenti e svogliati. È tutto a rischio, dite. Quando poi un ascoltatore propone un investimento a livello mondiale, dite sempre che tutto è a rischio. Diversificare. Ma non date nessuna idea di investimento. Allora, diciamolo, il mondo è una fregatura totale. No, speriamo. No, Romano, il mondo è bellissimo. Guardi, se io potessi viaggerei un sacco, altro che il mondo è una fregatura. Detto questo, Romano, il tema è che esiste una diversificazione, mi sono pure impappinata, è una parola complessa. È una diversificazione che va costruita a misura del cliente. Antonello, Sanna, per questo non si possono dare delle regole generali, quindi questo è il principio, Romano, che deve passare. Non posso dire o farlo dire a un consulente diversificati in India, in Cina, in Brasile o in Vietnam, perché non può andare bene per tutti, Sanna. Sono assolutamente d'accordo, però voglio dare una risposta: perché diversificare? È vero che tutto è rischio. Siamo al 1 gennaio di quest'anno, 2011, prospettive di borsa, non so se ricordate, abbastanza... È partita la primavera araba, come lo ricordo bene. Primavera araba, poi abbiamo il terremoto, però a luglio scommettevano in tanti sul fatto che il secondo semestre sarebbe stato un semestre di borsa particolarmente brillante. Quindi il rischio c'è di sbagliare previsioni. Però se tiriamo le somme di quest'anno, il Dow Jones ha guadagnato il 4,34, mentre l'area euro ha perso grosso modo il 20% con un picco di Milano 27. Allora facciamo un ragionamento banale: se io avessi avuto il 50% in America e il 50% in Italia, da una parte avrei portato il meno 27, dall'altra parte avrei portato più 4. Rispetto a stare completamente in Italia avrei fatto molto meglio, rispetto a stare completamente in America avrei fatto un po' peggio. E questo è il senso della diversificazione: non avendo certezze ho diviso il denaro equamente. Tutto qui, non c'è nient'altro. Poi magari l'anno 21 leggiamo che l'America è andata molto peggio dell'Europa, ancora una volta facciamo questo ragionamento. Ora, se frazioniamo non solo sui mercati azionari, ma cominciamo a mettere dentro obbligazioni, cominciamo, qualcuno dice che l'oro è un'ottima cosa, il platino in questo momento è sottovalutato, insomma ci mettiamo anche delle cose che non siano proprio riconducibili ai mercati finanziari, è più probabile nel tempo che ne guadagneremo tantissimo ma ne perderemo moltissimo. Questo è un po' il senso delle diversificazioni. Poi evidentemente, come diceva lei, è corretto anche vedere, perché se diversifichiamo su azioni, sono una persona che ha 70 anni, probabilmente non siamo esattamente centrati, però concettualmente è questo, il fatto di avere la possibilità di guadagnare o di non perdere andando su più mercati. Ammortizziamo un po', come dire, situazioni deludenti con altre potenzialmente invece vincenti. Allora, io credo di dovermi fermare perché adesso abbiamo la nostra prima pausa, poi ci sono già altri ascoltatori pronti ad intervenire, le domande sono di vario genere, dall'investimento nel settore immobiliare, naturalmente titoli di Stato, assicurazioni sulla vita, ma d'altronde sono portafogli che immagino conosciate abbastanza bene perché i vostri clienti ve li racconteranno. E quindi potremo dare un po' delle idee su come muoversi in queste acque che continuano purtroppo ad essere ancora un po' agitate. Peraltro fatemi un po' vedere la borsa cosa fa adesso. Meno 0,23 Milano, almeno ha recuperato un po' la perdita che prima era un po' più consistente. Vabbè, non sto neanche a raccontare quante considerazioni, come al solito ce l'aspettavamo, arrivano un po' sui promotori finanziari, perché ovviamente ci sono delle professionalità eccellenti, c'è chi invece naturalmente vuole solo portare a casa lo stipendio e chiaramente cerca di insistere con la vendita di prodotti che molto spesso non sono su misura del cliente seguito. Questo è un problema che esiste in tutte le professioni, per cui non vorrei neanche ritornare a commentarlo. Detto questo, ricordiamo anche che l'industria e le reti di promotori si sono notevolmente evolute negli ultimi anni. Adesso quasi tutte le società sono in grado di vendere prodotti di investimento appartenenti a più case di investimento, primari attori internazionali, per cui c'è l'ampia possibilità di scelta. Ormai la vecchia figura del promotore finanziario, scordatevela, non è più quella che vi ricordate, soprattutto se non siete stati seguiti correttamente. Detto questo, qualche volta dobbiamo fare anche noi del nostro e magari così costruire una relazione utile per far lavorare bene il promotore finanziario. Giannini Guazzugli, ci dia un po' una ricetta anche per, come cliente, poi ritorniamo sui temi legati all'attualità, per essere, come dire, capaci di costruire una relazione valida con un consulente finanziario. Ma sicuramente è fondamentale che il risparmiatore ci dica la verità, nel senso che è come se io andassi da un medico e ho mal di testa e gli dico che mi fa male un piede, e difficilmente uscirò con la cura giusta. È chiaro che questo è basato sul rapporto di fiducia, per cui nel momento in cui il risparmiatore che ha di fronte a sé un interlocutore che ritiene valido e affidabile, come peraltro lo sono i promotori finanziari che fanno riferimento poi a società mandanti sulle quali non abbiamo assolutamente nulla da dire, anzi è un'ulteriore garanzia questa per il risparmiatore, però un rapporto di verità e di sincerità ci deve essere da entrambe le parti. Il cliente, il risparmiatore, che ci dice esattamente che cosa gli piace e cosa non gli piace, perché è ovvio che un bravo professionista, al di là di aiutare il risparmiatore a costruire un portafoglio di investimenti, deve anche avere la sensibilità per rispettare comunque determinate scelte di un risparmiatore. Un risparmiatore che mi dichiara apertamente l'avversione a certi strumenti finanziari, è inutile che io insisto a dirgli: ma prendi questo perché può essere utile al tuo obiettivo. Non posso far vivere in ansia un risparmiatore perché l'ho in qualche modo guidato su una scelta che lui comunque ideologicamente, tendenzialmente rifiuta. Non è questo il modo di affiancare un risparmiatore, è quello di spostare magari l'attenzione dal prodotto a un obiettivo. Ecco dov'è il salto di qualità che noi possiamo fare e facciamo stando accanto al risparmiatore. Quindi riprendendo anche prima il concetto della diversificazione. Sì, infatti tra l'altro c'è anche un altro ascoltatore che vuole intervenire su questo. Il concetto della diversificazione è basato e realizzato proprio su questo, cioè come costruire un percorso insieme che... Gli strumenti finanziari oggi sono talmente tanti, l'opportunità di avere nella nostra valigetta una gamma quasi infinita di prodotti, proprio perché ormai la cosiddetta architettura aperta, no? Tutte le società hanno stretto accordi, noi possiamo collocare di tutto e di più quasi. Questo comporta da parte nostra un'esigenza di preparazione ancora più importante, perché è ovvio che districarsi in un mare di strumenti numericamente così importanti comporta a noi un livello di preparazione sempre più alto, ma questo di fatto diventa poi la garanzia per il risparmiatore, perché l'interlocutore, il professionista che si trova di fronte è una persona che ha studiato, nel senso è preparato, è pronto ad affrontare con lui questo percorso. E soprattutto non abbiate paura a fare domande, fatene tante, qualche volta qualche ascoltatore ha sollevato questa obiezione: siamo sicuri che il promotore finanziario, che è una cosa diversa dal consulente finanziario, non lo so, poi ce lo facciamo raccontare da loro se in quale definizione si sentono di cadere meglio. Molti appunto ascoltatori, ribadisco, esprimono questa perplessità che i promotori vendano comunque i prodotti finanziari a prescindere dall'andamento del momento di mercato eccetera, che a loro porta in casa maggiori commissioni. E allora molti altri vostri colleghi mi hanno detto qualche volta con grande tranquillità che il cliente non deve aver paura di chiedere anche come funziona la loro, come dire, situazione remunerativa, e quindi se c'è un rapporto di totale fiducia magari il promotore può anche raccontarlo in tranquillità. Adesso ho lanciato questa provocazione per la quale magari in privato mi sgrideranno anche, ma non credo, insomma possiamo dare questi suggerimenti con grande tranquillità. Ritornerei su altri ascoltatori, i problemi e le preoccupazioni legate appunto all'attualità. Chi prendiamo? Prendiamo Lucia d'Ancona. Lucia, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Allora, io ho due domande da farvi su due obbligazioni diverse. Una è italiana, però in dollari, e scade purtroppo nel 33. E intanto parliamo di questa. Allora, l'ho sottoscritta il 7 dicembre del 2006, quindi 5 anni ormai, no? Quindi sono stata in banca il 15 dicembre, mi sono fatta fare dei conti e praticamente quel giorno il dollaro, il cambio era a me favorevole, mi pare 1,29. Oggi ne è 30. Considerando le cedole che ho riscosso, praticamente raggiungo il pareggio. Ecco, è il caso di tenerla o di venderla, anche perché dall'anno prossimo la tassazione sarà diversa, no? Se no era un 5,375. Però non Lucia, male. Ascolti una cosa, se lei ha, come dire, una grande... Adesso è chiaro che come sono andate un po' le cose negli ultimi mesi, magari nessuno lo poteva prevedere, nessuno poteva pensare che i prezzi delle obbligazioni crollassero in questa maniera. Detto questo, se però lei aveva, come dire, la sensazione che controllasse il suo risparmio molto frequentemente, come giustamente fa, tutti i prodotti di investimento possono avere come dire, un'oscillazione così importante, allora perché sottoscrivere un prodotto che ha una scadenza così lunga? Perché non si è subito collocata? Non ero, su... non, non ero esperta e non lo sono tuttora. No, perché anche questo è un aspetto importante. Mi è stato consigliato, purtroppo è andata così. Vabbè. Adesso no, mi chiedo se le cose pare che vadano meglio per l'Italia, però è lunga questa, quindi io la sto monitorando perché è come se l'avessi tenuta ferma per 5 anni, però il capitale lo riprenderei, insomma. Benissimo, Lucia. Allora, vediamo un po' chi alza la mano. Sanna si candida. Direi che esattamente un BTP trentennale con sopra rischio di cambio. Quindi opportunità un po' più amplificate. Però non sei particolarmente preoccupato, cioè lo scenario 1 è l'Italia fallisce, allora è un problema, non si prende più il controllo dell'obbligazione, ma credo che siamo impegnati in altre attività. Sì, sì. Oppure, come immaginiamo, piano piano le cose si rimetteranno in sesto. Se questo è lo scenario, vuol dire che lei lo vende oggi guadagnando o rimettendo o andando alla pari, comunque lo vende più basso di quanto lo potrebbe vendere fra un anno. Perché se l'Italia si rimette a posto, gli spread scendono, vuol dire che il prezzo di quell'obbligazione risalirà. Quindi le converrebbe, salvo che lei non propenda per lo scenario A, quello dove fallisce l'Italia, le converrebbe attendere, continuare a prendere la sua cedola, attendere che i prezzi delle obbligazioni italiane riprendano un corso normale. Qual è, non lo so, Alma Foti, il suggerimento che lei sta dando ai suoi clienti che comunque ancora rimangono largamente affezionati al titolo di Stato, fermo restando il concetto della diversificazione, quindi non mettere tutte le uova nello stesso paniere, magari riservare a questo tipo di investimento una quota limitata, ragionevole, insomma, del proprio portafoglio, ma per chi appunto ancora ritiene che sia la cassaforte inossidabile del proprio risparmio il titolo di Stato, lei che cosa, come era raccontato anche quello che è successo da luglio in avanti allo spread, che cosa si è inventata, non c'è poco da inventarsi, cosa concretamente insomma ha potuto raccontare del nostro paese? No, infatti inventare era molto complicato, diciamo che per i clienti che hanno i titoli di Stato, ma che comunque sono anche i miei clienti, quindi ritengo che abbiano diversificato anche in altro, io in questo momento consiglio assolutamente, siccome sono poco propensa allo scenario A di cui parlava il collega, quindi che fallisca l'Italia, consiglio assolutamente di tenere, perché poi se sono stati comprati per un obiettivo, non vedo adesso perché decidere di quale può essere l'obiettivo. Adesso chiaramente bisognerebbe chiederlo all'ascoltatrice di Ancona, ma chi sottoscrive un'obbligazione che ha una scadenza così lunga, anche secondo la vostra esperienza, che tipo di obiettivo di investimento ha? Il punto è che spesso hanno sottoscritto obbligazioni con una scadenza così lunga perché si sono fermati al tasso di rendimento. E questo è. E non guardano mai la volatilità, perché chiaramente anche un titolo di Stato, anche un'obbligazione con una scadenza lunga, è chiaro che ha una volatilità più elevata. Quindi, e questo noi cerchiamo di spiegarlo ai clienti, questa è un'altra differenza, perché cerchiamo sempre di spiegare, io dico ogni il tasso ha incorporato un rischio o un vincolo. Infatti, Sanna voleva aggiungere qualcosa, sì. Può essere anche per una scelta consapevole. Oggi, quello più attento alla speculazione e al guadagno può decidere di comprare il trentennale. Il trentennale oggi è intorno ai 70 punti, se gli spread dovesse orientare potrebbe quotare intorno ai 90-95, il che vorrebbe dire portare a casa quasi 30 punti di guadagno nel giro di qualche mese. Quindi lo speculatore può anche decidere di puntare, proprio per la volatilità che il titolo porta dentro, sul trentennale, che comunque presenta un grado di sicurezza sempre piuttosto buono man mano che si avvicina alla scadenza, e però nel momento in cui i tassi dovessero richiudersi guadagna molto più rapidamente di un titolo quinquennale. Sentiamo la domanda di Rita da Roma e poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, le risponderemo subito dopo. Rita, buongiorno. Buongiorno. Mi sento? Sì, pronto? Ci sente, noi la sentiamo. Volevo fare questa domanda. Io ho un mutuo a tasso variabile con il CAP. E volevo chiedere, avendo dei risparmi, conviene fare una riduzione parziale di questo mutuo o ottenere questi risparmi e investirli diversamente? Quando l'ha fatto il mutuo, Rita? Perché bisogna anche capire che tipo di tasso ha sottoscritto, perché adesso... Che tipo, scusi? Che quando ha sottoscritto il mutuo? In che anno? 2010. Ah, quindi proprio da pochissimo, se ne vorrebbe già liberare, quindi probabilmente già il CAP a quanto? A 5,50. Beh, quindi sarà il famoso, sì, ho già anche capito quale prodotto è, se non smetto. Esatto. C'era in quel momento una banca che offriva questo prodotto qua. Non ve lo posso neanche dire il tema del mutuo, che discussione ha scatenato fra i miei ospiti. Prima cosa perché io l'ho subito provocati. Io questo concetto tanto lo porterò con me nella bara, speriamo il più avanti possibile. Io, se potessi, il mutuo me lo leverei di torno, quindi sarei, se fossi dalla, come dire, dalla parte di Rita, fermo restando che chiaramente se deve chiudere il mutuo non è che ci deve buttare dentro tutto il suo risparmio, perché sennò è ovvio che è un'operazione inutile. Detto questo, avendo la disponibilità, io quantomeno lo ne eliminerei gran parte, però questa è una scelta emotiva fondamentalmente, perché io quella cosa sul groppone proprio non la sopporto. Si possono fare però delle valutazioni anche di tipo finanziario sulla, come dire, opportunità di mantenerlo o meno. Allora, c'era Alma Foti che stava già facendo un ragionamento, un calcolo. Sì, io dicevo, la signora comunque ha un cap interessante, cioè di 5,50. Oggi si trovano dei titoli di Stato che rendono di più, quindi già guadagnerebbe il differenziale investendo quella cifra che ha a disposizione su uno di questi titoli. Fermo restando che oggi è più complicato ottenere un mutuo, quindi se dovesse chiuderlo e avesse necessità di avere di nuovo dei soldi a prestito, oggi le costerebbe di più, sarebbe più complicato averli. E poi, insomma, ha sottoscritto veramente da poco, praticamente ha pagato a malapena 2 lire murolo di interessi, quindi non so, tenere ancora un po' cioè nel 2010 magari ha preso un'occasione comunque conveniente ancora. Ma sì, il mutuo senz'altro è conveniente, come diceva la collega prima, è una decisione tra l'altro maturata un anno fa, quindi non credo che nello scenario della signora siano cambiate moltissime cose al di là dei mercati finanziari. Poi posso anche dire che secondo me, a parte il CAP, che è una protezione che in realtà entra in funzione in un caso estremo di lievitazione dei tassi, e siccome non abbiamo neanche di fronte a noi uno scenario di questo tipo, a meno che il credit crunch esplode in maniera dirompente, ma non vedo, credo, gli Euribor sono tutti abbastanza tranquilli, anche il mio mutuo ringrazia questo periodo. Esatto, quindi io tutto sommato consiglierei alla signora di tenere nonostante i suoi suggerimenti, Deborah, di tralasciare i debiti eccetera, e suggerirei di trattenerlo, di lasciarlo così com'è. Lo confesso sempre molto candidamente che il mutuo non lo sopporto. Detto questo, che cosa facciamo adesso? Sentiamo un altro ascoltatore, vediamo un po', adesso vi provoco un po' sul ruolo del consulente finanziario, del promotore finanziario. Roberto da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, ecco. Io niente, ovviamente anch'io dopo aver terminato il mio mutuo, fortunatamente ho raggranellato 2 soldini portandoli in banca, e ovviamente io sono un artigiano che fa tutt'altro il lavoro che quello del promotor o di comunque chi maneggia i soldi, e ho pensato bene di dire alla mia banca: signori, non mi interessa, questi sicuramente non sono i momenti dove posso fare mega guadagni o anche piccoli guadagni, però fate in modo almeno di proteggerlo, di conservarlo. Di proteggerlo, e giustamente posso fare il nome della banca. Allora, però adesso, a parte il nome della banca, che potrebbe essere qualunque, è andato in banca, quindi magari si è interfacciato col direttore, con l'impiegato che ha trovato lì. Esatto. Adesso io non voglio portare l'acqua al mulino di queste persone che sono qua, perché non ho nessun interesse, Roberto. Già il promotore fa un'altra cosa, si siede con lei, ci perde qualche giornata di tempo, magari l'impiegato deve fare mille altre cose. Comunque, detto questo, che cosa ha fatto questa persona che l'ha seguita? No, niente, questa persona che mi ha seguito a un certo punto mi dice: ma guarda, c'è questa cosa spettacolare che noi facciamo, la famosa convertendo. Fuochi d'artificio, Di questa banca. Io ripeto, totalmente ignorante, perché se parliamo di un certo settore le posso dare qualche consiglio, se parliamo di soldi le dico sì o ma no. Ma giustamente, non lo so. Come io faccio un altro lavoro e non faccio il suo, Roberto, ecco, lei mi può consigliare al meglio su un prodotto artigianale. Esatto, che io ho detto va benissimo, tanto non ho, cioè sei tu il tecnico, io siete voi, voi siete la mia banca, fate voi, consigliate questo, va bene. E giustamente qualche giorno fa ho sentito di quello che sta succedendo, e quindi anche qui già nessuno, noi. Cioè, già c'è questa volatilità in tutti i settori, più noi, io mi metto tra quelli che confesso la mia totale ignoranza, quindi totalmente allo sbaraglio, fidandoci del tuo istituto, non lo so, di chi ha in mano i tuoi soldi, ti dice guarda. Però Roberto, l'unica cosa da fare lì era: io non capisco il significato della parola convertendo, per cortesia questo prodotto te lo tieni, mi dai una cosa più semplice, che magari poteva essere la vituperata obbligazione bancaria, ma a me un po' più semplice era. Aspetti lì Roberto, perché sennò le devo dedicare tutta la trasmissione, non lo so. Giannini, Guazzugli, allora intanto il convertendo che cos'è? Può essere un prodotto finanziario che ad un certo punto viene convertito in azioni di quella stessa banca, no? Esatto, quindi diciamo che al di là della grande fiducia che Roberto sta dimostrando, ha dimostrato nei confronti del proprio istituto, ed è un elemento importante anche per noi la fiducia del risparmiatore, però noi cerchiamo di avere una fiducia consapevole, nel senso che quelle due domande in più servono proprio per capire, come dicevo prima, se poi Roberto, nella fattispecie, ha necessità di quel prodotto o gli serve qualcos'altro. Probabilmente una forma di investimento di questo tipo, appunto il convertendo, non risponde a quel tipo di esigenze che aveva il risparmiatore, cioè di avere sostanzialmente un investimento privo di rischi. Da questo punto di vista, un'obbligazione che di fatto si tramuta in qualcos'altro, perché questo vuol dire convertendo, non risponde a quelle che hanno le sue esigenze. Infatti, cioè, questa è la cosa più lontana al mondo, Alma Foti, da una protezione del capitale. Qui è metterlo direttamente sulle montagne russe, che può anche andare bene, a meno che tu ci metti però una quota molto modesta del tuo risparmio e che la banca gli spieghi bene cosa sta facendo. No, io volevo anche dire che oggi c'è la MiFID che ci obbliga a capire se il cliente ha capito cosa sta comprando. Questo è importantissimo. La MiFID, ricordiamo che è quella famosa direttiva di qualche anno fa, che ha in realtà comportato grandi obblighi nei confronti delle banche, perché c'è anche molta carta che deve essere prodotta e fatta firmare da parte della clientela, però insomma bisogna anche essere utilizzata, certo, con una certa correttezza. Noi dobbiamo valutare se l'investimento è adeguato al cliente. Quindi dobbiamo dare tutte le informazioni relativamente ai prodotti che stiamo cercando. Questo obbligo ce l'ha il promotore finanziario, l'impiegato della banca non ce l'ha? Ce l'ha anche la banca, assolutamente. Però insomma, lì magari insieme al prodotto spettacolare gli ha fatto firmare anche la MiFID, lì insomma tutta una serie di firme che non è. A proposito di MiFID, c'è Gilberto dalla provincia di Fermo, sempre oggi dalle mie Marche hanno chiamato un sacco di ascoltatori. Gilberto, buongiorno. Buongiorno. Allora, sulla MiFID? Sulla MiFID io ho chiamato nel momento in cui parlavate dei promotori e volevo ricordare che fra le regole cui debbono attenersi i promotori c'è quello di controllare che ogni prodotto collocato sia adeguato ed appropriato al profilo di rischio e al portafoglio del cliente. Lo stavamo dicendo adesso, questo però significa semplicemente che se si ha di fronte un professionista serio non ha margine di errore. Nel collocare un prodotto, fatto salvo che i titoli senza rischio non esistono più, l'avete già detto. Infatti, questo ormai speriamo, anzi fino allo sfinimento. Un professionista serio non può sbagliare di fronte a un cliente se applica MiFID in tutte le sue parti. Lo so. Roberto Murolo, che obblighi vi ha comportato questa direttiva finanziaria? Che opportunità anche nuove di esplorare magari nuove possibilità di relazione con i clienti? Ha rafforzato la relazione con la clientela? Sì, in effetti l'ha rafforzata, perché c'è stato un obbligo prima tutto di comunicazione da parte del promotore finanziario del progetto e del processo MiFID all'investitore, e con questo l'opportunità che credo che tutti i colleghi promotori finanziari abbiano colto sia stato quello di conoscere ancora maggiormente il proprio cliente, l'adeguatezza, appunto il suo profilo di rischio, ragionando, come si diceva prima, soprattutto per obiettivi. Questo mi pare quello che deve venire fuori dal discorso MiFID. Che cosa... Ho spento il microfono perché avevo la tosse. Che cosa risponderebbe l'ascoltatore che ci scrive che la MiFID invece è stata costruita appositamente per tutelare le banche, che in qualche maniera si spogliano delle loro responsabilità e facendo firmare tutta questa documentazione al cliente la, come dire, riversano su di lui? Beh, ancora una volta qui viene in ballo il discorso della fiducia tra il promotore finanziario e il cliente che sia davanti. Io faccio firmare ai miei clienti una MiFID centrata su quello che ho, sul cliente che ho davanti, quindi per forza di cose dovrebbe essere così, dovrebbe funzionare così. Una conclusione di 10 secondi a Giannini Guazzugli, perché me l'ha chiesta. Sì, MiFID è un cambiamento storico, epocale nella gestione del rapporto fra i risparmiatori e i professionisti che ha di fronte. Noi peraltro come ANAS sosteniamo da sempre che il risparmiatore ha diritto ad avere un interlocutore estremamente qualificato indipendentemente da quale esso sia. Insomma, adesso in realtà abbiamo avuto questa deriva finale sulla MiFID in trasmissione, però magari qualche cliente di qualche promotore consulente non sapeva neanche che esistesse tutta questa procedura da mettere in piedi per avere un investimento ottimale per sé, e quindi oggi che abbiamo spiegato anche questo. La nostra trasmissione è terminata, io avrei voluto chiedervi tante altre cose, non ce l'abbiamo fatta, ma lo faremo in altre occasioni. Grazie a Roberto Murolo, Gianfranco Giannini Guazzugli, Alma Foti e Antonello Sanna, ad Alessandro Longoni che in questi giorni mi ha assistito per un sacco di ore in tutta questa grande operazione che abbiamo messo insieme, Roberto Scaltritti, alle ragazze del Centralino. Io ritorno domani a mezzogiorno, anzi domani mattina alle 9 con le borse, la Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti. Salva Danaio.